Viva l'Italia che fa le marchette, viva l'Italia delle quote del latte, viva l'Italia col suo popolo gregge, viva l'Italia dei fuorilegge. Viva l'Italia che vota e rivota, viva l'Italia che corrompe la sposa, viva l'Italia dell'assassinio, viva l'Italia del latrocinio. Viva l'Italia che fa la truffa, viva l'Italia che ricicla la muffa. Viva l'Italia del falso bilancio, del bancarottiere e del fraudolento. Facciamo un valzer, facciamo un valzer, così facciamo il verso, oh, a De Gregori. Facciamo un valzer, facciamo un valzer, così facciamo ballare quattro buffoni. E viva l'Italia delle veline, e viva l'Italia delle mappine, viva l'Italia la TV commerciale, viva l'Italia quella criminale. E viva l'Italia dei mafiosi per bene, che entrano in politica per senso civile. Viva l'Italia dei ministri scugnizzi, che non si dimettono manco chi cazzo. Facimmo un valzer, facimmo un valzer, per sfrugugliano poco, oh, napolitano. Facimmo un valzer, facimmo un valzer, per far ballare Cirino Pomicino. Viva l'Italia dell'assoluzione, viva l'Italia della prescrizione, viva l'Italia di Giulio Andreotti, tutto casa, chiese più 300 miss. Viva l'Italia della menzogna, viva l'Italia che stupra chi sogna, viva l'Italia della mucchiata, e viva l'Italia la partita truccata. Facciamo un valzer, facciamo un valzer, così facciamo un plagio, oh, a De Gregori. Facciamo un valzer, facciamo un valzer, così facciamo ballare quattro buffoni.